Terra in vista. Il Natale spiegato a mio figlio. Caro Babbo Natale, a te, visto che nessun bambino ti ha fatto mai un regalo, avrei pensato di mandarti un mio pupazzetto. Fammi sapere le tue preferenze. Gradirei un tuo regalino. Tuo, Steny. È la mattina di Natale, si aprono i regali e c'è l'attesa, c'è la sorpresa, c'è la festa. Buon Natale da Federico Taddia e da tutta Radio 24. Questo è il nostro dono sotto l'albero, una puntata speciale dedicata ai più piccoli, o meglio, dedicata alle parole dei bambini e alle parole per i bambini. Quindi vivremo un'oretta insieme con racconti, con vocaboli donati da famosi scrittori, la musica e poi ci sono loro, le letterine che i più piccoli hanno scritto a Babbo Natale. Babbo Natale, io mi sono comportato male, non mi portare niente, André. Caro Babbo Natale, tu per me sei un papà. La cosa che mi piace di più di te è che porti regali a tutti i bambini. Africani, napoletani, cinesi e giapponesi, spagnoli e inglesi. Ciao da Elena e salutami la luna che mi piace tanto. Caro Babbo Natale, se vieni a casa mia ti presento mia sorella. Ciao. Jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Abbiamo promesso dei regali anche noi in questa mattina di Natale. Infatti abbiamo chiesto ad alcuni famosi scrittori, alcune delle penne più amate dai bambini, di regalare una parola. E questo, per esempio, è il dono di Bruno Tognolini. Tre doni, tutti che cominciano con la A. Alberi, asini, auguri. Gli alberi e gli asini cosa c'entrano uno con l'altro? Perché sapete che ci dividiamo tutti fra quelli dell'albero di Natale e quelli del presepio. Gli alberi e gli asini. Cominciamo con gli alberi. Ma dove vanno gli alberi secondo voi? Dove vanno gli alberi dei Natali passati? Aspettano negli angoli, addormentati, soli, angeli, boscaioli passano col carretto, li prendono e li piantano in un bosco perfetto. Lì tutti si riaccendono, abbaglianti di stelle, sfolgoranti d'argento, 300 volte 1000. La foresta di luce alla fine del mondo, dove corri felice nel tuo sonno profondo, mentre intorno sussurrano i boschi eterni e scuri, dove attendono gli alberi dei Natali futuri. E questo è per i tifosi, i fautori, i tifosi dell'albero di Natale. Asini, per i tifosi del presepio, sentite questa come dice così, notte santa, santa notte, gli angeli in cielo cantano a frotte, notte bella, notte nera, gli uomini in terra cantano a schiera, notte grande, notte d'oro, visto che tutti cantano in coro, l'asinello dai grandi occhi bui apre la bocca e canta anche lui. Vuoi star zitto, disgraziato? gli sussurra la Madonna. Ma il bambino oramai si è svegliato, carezza l'asino e dice alla donna: troppi somari son fuori dal coro, io son venuto a cantare con loro. Santa notte, notte santa, il presepio tutto canta, cori di angeli, stelle di gelo, ragli di asini salgono in cielo. Ecco, ora che vi ho dato il mio presepietto con l'asino che canta e in la mia foresta degli alberi dei Natali futuri, finisco con gli auguri. Questa è una formula miracolosa, non devi dirla distrattamente, dilla più piano, dice qualcosa, dice fortuna per chi la sente, dice di belle mattine serene, parla del sole e dei giorni futuri, dice che io voglio che tu stia bene, dice così, auguri. Babbo Natale, ciao, come stai? Io mi chiamo David, sono italiano, sono nato a Crema. Di carattere non sono né troppo buono né tanto cattivo. Sono il ballerino della scuola e mi piace la musica rock. I miei compagni mi chiamano un asso del canto. Come vanno i tuoi lavori? E i tuoi folletti come stanno? Sono già al lavoro? Senti, ti vorrei fare una richiesta. Potresti portarmi un microfono di colore verde, per favore? Per il mondo ti chiedo di eliminare le guerre, perché con questo ISIS non è tanto bello. Cari saluti da David. Ho scritto, salutami folletti. Adesso un'altra sorpresa. È vero che ha lavorato tutta notte, però lo abbiamo svegliato ed è il momento di dare voce a Babbo Natale. E lo facciamo attraverso un famoso scrittore, Mark Twain, che ha fatto finta di essere Santa Claus e ha scritto una letterina alla figlia. Mia cara Susie Clemens, ho ricevuto e letto tutte le lettere che mi avete scritto tu e la tua sorellina. So leggere senza alcun problema la grafia frastagliata e fantasiosa, tua e della piccola. Ma ho avuto qualche problema con le lettere che avete dettato a vostra madre e alle balie, perché sono straniero e non so leggere bene l'inglese. Vedrete che non ho commesso errori per quanto riguarda le cose che tu e la piccolina avete chiesto nelle vostre lettere. Sono sceso lungo il vostro camino a mezzanotte mentre dormivate e vi ho portato tutto personalmente e ho anche dato un bacio ad entrambe, ma c'erano una o due piccole richieste che non ho potuto esaudire perché abbiamo finito le scorte. C'erano una o due parole nella lettera della mamma che penso fossero un baule pieno di vestitini per le bambole. È così? Mi farò trovare alla porta della cucina intorno alle 9 di questa mattina per chiedertelo. Ma non devo vedere nessuno, né parlare con nessun altro a parte te. Quando il campanello della cucina suonerà, George deve essere bendato e mandato ad aprire. Devi dire a George di camminare in punta di piedi e di non parlare, altrimenti morirà un giorno. Quindi devi salire nella cameretta e stare in piedi sulla sedia o sul letto della tata e appoggiare l'orecchio al citofono, quello che dà sulla cucina. E quando io ci fischierò dentro dovrai dire benvenuto Babbo Natale. Quindi ti chiederò se era un baule quello che volevi. Se dirai sì, ti chiederò di che colore lo vuoi. E dovrai descrivermi in ogni singolo dettaglio le cose che vuoi che contenga. Quindi, quando dirò arrivederci e buon Natale alla mia piccola Susie Clemens, tu devi dire arrivederci, buon vecchio Babbo Natale, ti ringrazio moltissimo. Quindi, devi scendere nella biblioteca e dire a George di chiudere tutte le porte che danno sulla sala. E tutti devono stare fermi, per un pochino. Andrò sulla luna e in pochi minuti prenderò le cose che mi avete chiesto. Tornerò passando per il camino della sala. Se vuoi un baule. Perché non posso far passare un baule dal camino della cameretta, sai. E se lascio della neve nella sala, dite a George di spazzarla nel camino, perché io non avrò tempo di farlo. George non dovrà usare la scopa, ma uno straccio. O di nuovo, un giorno, morirà. Se i miei stivali lasciano una macchia sul marmo, George non deve pulirlo con la pietra pomice. Lasciatela lì, per sempre, a memoria della mia visita. E ogni volta che la guarderai o la mostrerai a qualcuno, devi ricordarti sempre di essere una brava bambina. Ogni volta che ti comporterai male e qualcuno ti indicherà quella macchia che lo stivale del buon vecchio Babbo Natale ha lasciato sul marmo, cosa dirai, piccolo tesoro mio? Beh, arrivederci tra pochi minuti, quando verrò sulla terra e suonerò il campanello della cucina. Il tuo amorevole Babbo Natale, che ogni tanto viene chiamato Uomo della Luna. Our newborn king to see, ba-ra-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-ra-ba-bum-bum. To lay before the king, ba-ra-ba-bum-bum. So to continua la mattina di Natale di Radio 24 con Terra in Vista, il Natale spiegato a mio figlio. È il momento di un altro regalo, un altro scrittore, anzi una scrittrice che ha scelto una parola per i nostri giovani ascoltatori. È Sara Marconi. Allora, io ho scelto non una, ma due parole, che sono perfezione e imperfezione, perché penso che a Natale cerchiamo di fare tutte le cose perfette, di chiedere il regalo perfetto, di fare le decorazioni perfette, di preparare delle cene perfette, e anzi spesso quando i bambini e le bambine scrivono la lettera a Babbo Natale ci studiano tantissimo, perché deve essere proprio il regalo giusto, giusto, giusto, quello perfetto. E anche i genitori che cucinano spesso ci studiano tantissimo su che cosa fare, perché appunto deve essere tutto perfetto. Solo che spesso le cose non sono così perfette e quindi magari il regalo è divertente, è bello, ma non ha le pile e bisogna aspettare qualche giorno per farlo funzionare. Oppure una volta aperta la scatola si scopre che non è proprio perfetto, uno se lo immaginava un po' più grande oppure un po' più morbido, insomma a seconda dei regali. E il mio augurio, diciamo, è che siano imperfette queste cose e che vada bene lo stesso e che sia molto divertente proprio perché sono imperfette, e magari ci si può giocare anche di più con le cose imperfette, non è detto. E allora volevo leggere una filastrocca che ho scritto in un libro che si intitola Olimpia sulle isole, che è il seguito di un altro libro che si intitola Olimpia e le principesse. E la filastrocca è questa: non tutto è perfetto, ci sono le crepe, la gatta è sul tetto, si mangia la siepe, il muro c'è un buco, la mensola è storta, la mela c'è il bruco, la gonna è un po' corta. Non tutto è perfetto, mi sembra evidente. Se fosse perfetto, che noia avvilente. Quindi un po' di perfezione, ma anche un po' di imperfezione per questo Natale. Tanti auguri a tutti e a tutte. Babbo Natale, io per Natale vorrei il metodo scientifico, come quello della maestra o come quello di Pitagora. Ma tu sappi che la persona che voglio bene sei tu e i miei genitori. Ma te voglio bene tanto tanto. È tutto quello che ho potuto scrivere, Babbo Natale, ma mi sono dimenticata di dirti una cosa importantissima. Questo è il mio secondo desiderio per le persone che sono morte per colpa dell'ISIS o le bombe. Io voglio che le persone povere diventino come noi, le persone morte diventino vive. Io voglio essere sempre e poi sempre buona di cuore. È il simbolo del Natale, è l'albero ed è lui ora il protagonista di Terra in Vista, il Natale spiegato a mio figlio. Lo rendiamo protagonista con un classico racconto di Hans Christian Andersen intitolato L'abete. Ascoltiamo la prima parte. L'abete, una fiaba di Hans Christian Andersen. In mezzo al bosco si trovava un grazioso alberello di abete, aveva con sé parecchio spazio. Prendeva il sole, aveva aria a sufficienza e tutti intorno crescevano molti suoi compagni più grandi. Quel piccolo abete aveva una gran fretta di crescere, non pensava affatto al caldo sole né all'aria fresca. I figli dei contadini si sedevano vicino all'alberello e esclamavano: «Oh, com'è carino così piccolo!» Ma all'albero dispiaceva sentirlo. L'anno dopo il tronco gli si era allungato e l'anno successivo era diventato ancora più lungo. «Oh, se solo fossi grosso come gli altri alberi!» sospirava. «Potrei allargare per bene i miei rami e con la cima ammirare il vasto mondo!» E non si godeva affatto né il sole né gli uccelli e le nuvole rosse. Quando era inverno e la neve brillava bianchissima tutto intorno, arrivava spesso una lepre e con un salto si posava proprio sotto l'alberello. Che noia! Ma dopo due inverni, l'albero era così grande che la lepre dovette limitarsi a girargli intorno. Oh, crescere, crescere, diventare grosso e vecchio, è l'unica cosa bella di questo mondo, pensava l'albero. In autunno giunsero i taglialegna per abbattere alcuni degli alberi più grandi. Questi cadevano a terra con un fragore incredibile. I loro rami venivano strappati, poi venivano messi sui carri e i cavalli li portavano fuori dal bosco. In primavera, quando giunsero la rondine e la cicogna, l'albero chiese: «Sapete forse dove sono stati portati? Non li avete incontrati?» La cicogna rispose: «Sì, credo di sì. Ho incontrato molte nuove navi mentre tornavo dall'Egitto. Avevano alberi maestri magnifici. Immagino fossero loro, dato che odoravano di abete. Erano magnifici, davvero magnifici. Oh, se anch'io fossi abbastanza grande da andare per mare!» «Rallegrati per la giovinezza», dissero i raggi di sole. Quando si avvicinarono le feste natalizie, vennero abbattuti giovani alberelli, che non erano ancora grandi e vecchi come quell'abete. Vennero messi sui carri che i cavalli trascinarono fuori dal bosco. «Dove vanno?» chiese l'abete. «Non sono più grandi di me!» Noi lo sappiamo, cinguettarono i passerotti. «Abbiamo curiosato attraverso i vetri delle finestre della città. Vengono piantati in mezzo ad una stanza riscaldata e decorati con molte centinaia di candeline. E non abbiamo visto altro, ma era meraviglioso. Magari toccasse a me!» «Rallegrati», dissero l'aria e la luce del sole. «Goditi la tua gioventù qui all'aperto». L'albero cresceva continuamente. La gente che lo vedeva esclamava: «Che bell'albero!» Verso Natale fu il primo albero ad essere abbattuto. La scure penetrò in profondità nel midollo. L'albero cadde a terra con un sospiro. Sentì un dolore, un languore che non gli fece pensare a nessuna felicità. La partenza fu certo una cosa non piacevole. L'albero si riprese solo mentre veniva scaricato con gli altri alberi, quando udì esclamare: «Questo è magnifico! Lo dobbiamo usare senz'altro!» Giunsero due camerieri in gingheri che portarono l'abete in una gran sala molto bella. L'albero venne messo in piedi in un secchio di sabbia, ma nessuno vide che era un secchio, perché era stato ricoperto di stoffa verde ed era stato messo su un grosso tappeto a vari colori. Come tremava l'albero! Che cosa sarebbe accaduto? I camerieri e le signorine lo decorarono. Su un ramo pendevano piccole reti ricavate dalla carta colorata. Pendevano anche mele e noci dorate. Poi vennero fissate ai rami più di 100 candeline bianche, rosse e blu. Bambole che sembravano vere, dondolavano fra il verde. In cima venne posta una grande stella, fatta con la stagnola dorata. Era proprio meravigliosa. «Questa sera!» esclamarono tutti. «Questa sera deve splendere!» «Che cosa accadrà? Chissà se verranno gli alberi del bosco a vedermi. Metterò radici qui e resterò decorato estate e inverno?» Sì, ne sapeva davvero poco. Terra in vista. Carissimo Babbo Natale, mi chiamo Davide, ho 8 anni. Come stai? Sei guarito? Ti ricordi che l'anno scorso ti ho scritto? I miei compagni dicono che non esisti. Io però dico quello che dice la nonna Yolanda, che fino a quando ci sarà un bambino ci sarà sempre Babbo Natale. Io ti voglio bene e so che esisti. Ho chiesto un elicottero della polizia con tutte le luci. Non so se me lo porterai, se sei guarito o lo puoi costruire. Io ti credo, per questo so che esisti. Davide. Ancora i più sinceri auguri di buone feste da Federico Taddia e da tutta Radio 24. Terra in vista, il Natale spiegato a mio figlio, un'ora intera con musiche, parole, racconti dedicati al Natale. È il momento della seconda parte della bella favola scritta da Hans Christian Andersen, L'abete. Finalmente vennero accese le candele. Che splendore, che magnificenza! L'albero tremava con tutti i suoi rami finché una candelina appiccò fuoco al verde. Che dolore! Dio ci protegga! Gridarono le signorine e subito spensero la fiamma. Poi si aprirono i due battenti della porta e una quantità di bambini si precipitò nella stanza. Sembrava quasi che volessero rovesciare l'albero. Gli adulti li seguirono con prudenza. Ballarono intorno all'albero e tolsero uno dopo l'altro tutti i regali. Che cosa fanno? Pensò l'albero. Che cosa succede? Poi i bambini ebbero il permesso di disfare l'albero. Gli si precipitarono contro con una tale veemenza che se non fosse stato fissato al soffitto con la stella dorata si sarebbe certamente rovesciato. Nessuno lo guardava più. Ad un certo punto... Una storia! Una storia! Gridarono i bambini, trascinando un signore piccoletto ma robusto verso l'albero. L'uomo raccontò la storia di Cumpe Dumpe, che cadde giù dalle scale, salì sul trono e sposò la principessa. I bambini battevano le mani e gridarono «Racconta, racconta!» L'abete se ne stava zitto e pensieroso. Gli uccelli del bosco non avevano mai raccontato storie del genere. «Forse cadrò anch'io dalle scale e sposerò una principessa!» E si rallegrò al pensiero che il giorno dopo sarebbe stato decorato di nuovo con candele, giocattoli e frutta dorata. Il mattino dopo entrarono il cameriere e la domestica e lo presero. Lo trascinarono fuori dalla stanza, su per le scale, fino in soffitta. «Che significa?» pensò l'albero. «Che cosa ci faccio qui?» Si appoggiò al muro e continuò ad ascoltare e a pensare. Di tempo ne aveva, lì dove lo avevano appoggiato. «Adesso è inverno là fuori», pensò l'albero. «La terra è dura e coperta di neve. Gli uomini non potrebbero ripiantarmi. Per questo devo rimanere al riparo fino a primavera. Che ottima idea! Come sono bravi gli uomini! Se solo qui non fosse così buio ed io non fossi così solo, non c'è neppure una piccola lepre!» Esclamò un topolino proprio in quel momento e saltò fuori. Subito dopo ne uscì un altro. Fiutarono l'abete e si infilarono fra i rami. «Fra un freddo tremendo!» dissero i topolini. «Se non fosse per questo freddo si starebbe bene qui, non è vero, vecchio abete? Ma dove vieni? Sei stato nella dispensa dove c'è il formaggio sugli scaffali e i prosciutti che pendono dal soffitto? Non lo conosco, ma conosco il bosco dove splende il sole, dove gli uccelli cinguettano. Tu hai visto molto, come sei stato felice!» «Io? Sì, in fondo sono stati bei tempi.» E poi raccontò della sera di Natale, di quando era stato addobbato con dolci e candeline. «Come racconti bene!» gli dissero i topolini. E la notte dopo ritornarono con altri quattro topolini che volevano sentire il racconto dell'albero. E quanto più raccontava, tanto più chiaramente si ricordava e pensava: erano proprio bei tempi. «Ma ritorneranno! Ritorneranno!» La notte successiva vennero molti più topi e la domenica giunsero persino due ratti, ma dissero che la storia non era divertente e questo rattristò i topolini, che pure loro da allora la trovarono meno divertente. Alla fine scomparvero e l'albero sospirò. «Era molto bello quando si sedevano intorno a me, ma devo ricordarmi di divertirmi quando uscirò di qui.» Cosa successe invece? Una mattina presto giunse della gente a rovestare in soffitta. L'albero fu tirato fuori, lo gettarono sul pavimento e lo trascinarono all'aperto. «Ora ricomincia la vita», pensò l'albero, che sentì l'aria fresca e il primo raggio di sole. E tutto accadde così in fretta che l'albero non si accorse neppure del suo aspetto. «Adesso voglio vivere», gridò lui pieno di gioia e allargò i rami, che erano tutti gialli e appassiti. Ma la stella di carta dorata era ancora al suo posto e brillava al sole. L'albero vide i fiori del giardino e poi guardò se stesso e desiderò di essere rimasto in quell'angolo buio della soffitta. Pensò alla sua gioventù, passata nel bosco, alla divertente notte di Natale e ai topolini che erano così felici di aver sentito le sue storie. «Finito», esclamò. «Se almeno mi fossi rallegrato quando potevo! Finito, finito!» Il cameriere sopraggiunse e tagliò l'albero in piccoli pezzi e ne fece un fascio. Come bruciò bene sotto il grande paiolo! Sospirava profondamente ad ogni sospiro. Sembrava una piccola esplosione. Attratti da quegli scoppi, i bambini che stavano giocando accorsero e si misero davanti al fuoco e guardandolo gridarono «Piff, po'!» off, ma ogni crepitio che era per lui un sospiro profondo, l'albero ripensava a un giorno d'estate nel bosco, a una notte d'inverno quando le stelle brillavano nel cielo, alla notte di Natale e a Klumpedumpe, l'unica storia che aveva sentito e che sapeva raccontare. E intanto si era consumato tutto. I bambini ripresero a giocare nel cortile e il più piccolo si era messo al petto la stella dorata che l'albero aveva portato nella serata più felice della sua vita. Ora questa era finita e anche l'albero era finito. E così come la storia, finita, finita come tutte le storie. Ed eccolo sotto l'albero un altro degli scrittori più amati dai bambini italiani, anche lui porta in dono una parola, Andrea Valente. La mia parola era un po' indeciso tra due, ma la parola la prendo da lontano ed è Fulmicotone. È una parola che viene da lontano perché viene da un libro di un secolo e mezzo fa che ci porta sulla Luna, è il libro di Jules Verne che si intitola proprio Dalla Terra alla Luna, ed è con il Fulmicotone che il razzo parte, con l'esplosione del razzo, e porta gli uomini sulla Luna. E però è una parola scoppiettante, perché io voglio un anno nuovo esplosivo e scoppiettante, proprio con molte luci, molti viaggi magari anche sulla Luna e molta fantasia. E siccome è una parola che viene dal passato, ci porta quindi nel futuro, e l'ho scelta proprio per fare un viaggio, che è quello che sarà il nostro viaggio dell'anno prossimo. Ero indeciso tra questa parola e un'altra che parla di nasi, perché ho pronta una filastrocca che avevo scritto per Babbo Natale e che adesso vi recito. E dice così: Babbo Natale non è certo un caso, fieressimo andava del suo grosso naso, a forma di tonda, gustosa patata, senza punta alcuna, neppure spuntata. E lo sai tu perché il suo naso è così? Per non far confusione con quello di chi ha il nasino a carota, fatto come si deve, ma certo, ma sì, il pupazzo di neve, per distinguerlo tutta la folla dalla vecchia signora con il naso a cipolla. È un bitorzolo che non è cosa strana, perché quello è il naso della Befana. E tra patate rotonde, carote e cipolle, nel gran pentolone chissà cosa bolle. Il rischio davvero di far confusione, alla fine viene fuori un bel minestrone. E questa è la filastrocca. Il minestrone, per cuocerlo, ci vuole del fuoco e ci vuole il Fulmicotone che accenda tutto quanto. E quindi uniamo le due cose per l'anno prossimo. Buon Natale a tutti quanti e buon anno e buone feste. Caro Babbo Natale, io sono Matteo e vivo in provincia di Verona. Io sono un bambino furbo e chiacchierone. Mi diverto molto a giocare con i Lego. Adesso vorrei chiederti di schiacciare l'Isis. Come regalo vorrei il Nerf Demolisher e il Nerf Zombinator. Grazie mille. Ci vediamo il 25 dicembre, Matteo. Caro Babbo Natale, Ti volevo dire che fin da piccolo credevo che tu esistessi e ancora adesso ci credo. Piuttosto, stai bene? E i tuoi elfi sono in forma? Io sto bene, ma ti volevo dire che alcuni dei miei amici non credono che tu esista. Spero che anche quest'anno mi porterai i regali che ho chiesto nell'altra lettera. PS, dove abiti? Bacioni da un tuo ammiratore, Marco. Caro Babbo Natale, mi chiamo Andrea e ho 3 anni. Per Natale vuole la macchina telecomandata e la nave dei pirati. Io ti prometto che sarò sempre bravo, non farò più capricci e che proverò a mangiare di più a scuola. Grazie, ciao, da Andrea. Io, per Natale, vorrei un puzzle da 200 pezzi. E come proposito proverò a non menare mio fratello. Baci e saluti, Sofia. Caro Babbo Natale, grazie di giocattoli che ci hai portato l'anno scorso. Quest'anno io vorrei Sissi, la giovane imperatrice. Valerio vorrebbe il Clemente, il barbecue rovente. Grazie, Giulia e Valerio. Terra in vista. Terra in vista, il Natale spiegato a mio figlio, il regalo di Radio 24 in questa mattinata di Natale. E ripartiamo proprio da loro, dalle letterine che i più piccoli hanno scritto a Santa Claus. Babbo Natale, cosa fai dopo aver consegnato i regali? Ti va di venire a pranzo da me il 25 dicembre? Buone feste, Anna. Caro Babbo Natale, anche se qualche volta ti ho fatto arrabbiare, ti voglio bene. Quest'anno a Natale vorrei, e questa è una cosa grandissima, vorrei che il mio fratello Ivan si fidanza di nuovo con Elisabetta, e se rimangono un po' di soldi, qualcos'altro. Ci conto, un bacione grande grande, Denise. Caro Babbo Natale, quest'anno per regalo vorrei ricevere un cinghiale da mangiare con la mia famiglia nella cena di Natale, Pasquale. You better watch out, you better not cry. Not pat, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. I'm gonna find out it's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. E dalla voce di Mario Biondi a un'altra voce amatissima dai più piccoli, è quella dello scrittore Stefano Bordiglioni, anche lui con un regalo per i nostri bambini. La parola che vorrei regalare ai bambini per questo Natale è creatività. Vorrei regalare proprio questa parola perché la creatività è un modo speciale di guardare le cose che può servire per tutta la vita, che può cambiare la vita addirittura. Le cose infatti non hanno mai un solo uso, un solo significato. Ad esempio una pentola può servire per scaldare l'acqua e per fare il tè, oppure per cuocere il purè. Però se la rovescio e me la metto in testa, improvvisamente può diventare un elmo, un casco. Se invece la metto a terra sempre a rovescio, può diventare un seggiolino o un tamburo. È un gioco questo che io facevo da piccolo e che magari adesso fate voi bambini. Per diventare creativi bisogna leggere bei libri, bisogna sentire belle canzoni, guardare bei quadri e mille altre cose ancora. Per parte mia ho pensato di recitare una mia filastrocca che gioca con un proverbio, così come prima abbiamo giocato con le pentole. La filastrocca è: una mela al giorno toglie il medico di torno. Una mela al giorno toglie il medico di torno, specie se hai braccio potente, mela pesante e buona mira. I medici sono gente prudente. gente e stanno ben lontani dalle mele e da chi le tira. Buon Natale a tutti. Caro Babbo Natale, sono Fiona. Ti scrivo io anche per i miei fratelli Leandro, Lorenzo e Daphne. Dato che fai sempre tanti regali a tutti noi, ti chiediamo un regalo grandissimo. Un lavoro per il mio papà, Fiona. Il Natale è un momento davvero magico, così tanto magico che noi oggi ci permettiamo anche di viaggiare nel tempo. Lo facciamo con un racconto scritto da un autore famosissimo di fantascienza, Ray Bradbury, che si è immaginato un Natale ambientato nel futuro. Questo è Il Dono. Il Dono, un racconto di Ray Bradbury. L'indomani sarebbe stato Natale e mentre i tre si avvicinavano verso il razzo porto, la madre e il padre erano preoccupati. Era il primo volo nello spazio per il bambino, la primissima volta che saliva su un razzo ed essi volevano che tutto fosse perfetto. Così quando al banco della dogana furono costretti a lasciare il dono che superava di poche once il limite di peso e l'alberello con le belle candele bianche, si sentirono defraudati e della festività e del loro amore. Il bambino li aspettava nella sala del terminal. Mentre avanzavano verso di lui, dopo l'inutile discussione con gli agenti dell'interplanetaria, la madre e il padre sussurravano fra di loro. Cosa dobbiamo fare? Niente, niente. Cosa possiamo fare? Oh, che sciocco regolamento! È lui che desiderava tanto l'albero. La sirena lanciò un grande ululato e la gente salì sul razzo per Marte. La madre e il padre vennero ultimi e il loro figlioletto pallido stava fra loro, silenzioso. «Penserò io qualcosa», disse il padre. «Cosa?» chiese il bambino. E il razzo decollò ed essi vennero scagliati a testa bassa nello spazio. Il razzo si mosse e lasciò dietro di sé il fuoco e lasciò dietro di sé la terra, su cui la data era 24 dicembre 2052, puntando verso uno spazio in cui non v'era né tempo, né mese, né anno, né ora. Dormirono per tutto il resto del primo giorno. Quasi a mezzanotte, secondo i loro orologi regolati sul tempo terrestre di New York, il bambino si svegliò e disse: «Voglio andare a guardare fuori dall'oblò». C'era soltanto un oblò, una finestra di cristallo immensamente spesso ed abbastanza grande su nel ponte vicino. «Non ancora», disse il padre, «ti condurremo lassù più tardi». «Voglio vedere dove siamo e dove stiamo andando». «Voglio che tu aspetti, per una ragione», disse il padre. Era rimasto disteso, sveglio, pensando una cosa e un'altra, pensando al dono abbandonato, al problema della festività, all'albero perduto e alle candele bianche. E alla fine, levandosi a sedere, non più di 5 minuti prima, aveva creduto di aver trovato un piano. Era soltanto necessario che lo potesse realizzare e questo viaggio sarebbe stato veramente splendido e lieto. «Figliolo», disse, «esattamente fra mezz'ora sarà Natale». «Oh», disse la madre, sbigottita perché glielo aveva ricordato. In un certo senso aveva sperato che il bambino lo avesse dimenticato. Il volto del bambino divenne febbrile. Le sue labbra tremarono. Lo so, avrò un regalo, vero? Avrò un albero, avete promesso? Sì, sì, sì, avrai tutto questo e anche di più», disse il padre. La madre trasalì. «Ma dico sul serio», disse il padre. «Dico proprio sul serio. Tutto e di più, molto di più. Scusami adesso, tornerò subito». Li lasciò soli per quasi 20 minuti. Quando ritornò, sorrideva. «È quasi ora». «Posso tenere il tuo orologio?» chiese il bambino. E quando ricevette l'orologio, lo tenne, così ticchettante fra le dita, mentre il resto dell'ora scivolava via nel fuoco, nel silenzio, nel moto inavvertito. «È Natale! Adesso! Natale! Dov'è il mio regalo?» «Andiamo», disse il padre. E prese il suo bambino per la spalla e lo guidò fuori dalla stanza, lungo il corridoio, su per una rampa, e la moglie lo seguiva. «Non capisco», continuava a dire la donna. «Capirai. Eccoci arrivati», disse il padre. Si erano fermati davanti alla porta chiusa di una grande cabina. Il padre bussò 3 volte, poi 2, per un segnale prestabilito. La porta si aprì e nella cabina la luce si spense e vi fu un sussurrio di voci. «Entra, figliolo», disse il padre. «È buio! Ti terrò per mano. Vieni, mamma». Entrarono nella stanza e la porta si chiuse. E lì dentro era veramente molto buio. E davanti a loro c'era un grande occhio di cristallo, l'oblò, una finestra alta 4 piedi e larga 6, dalla quale potevano guardare fuori nello spazio. Il bambino boccheggiò. Dietro di lui il padre e la madre boccheggiarono con lui. E poi, nella stanza buia, qualcuno cominciò a cantare. «Buon Natale, figliolo», disse il padre. E le voci nella stanza cantarono i vecchi, familiari canti natalizi e il bambino avanzò lentamente fino a che il suo viso fu contro il vetro freddo dell'oblò. Rimase lì, ritto, per molto tempo, guardando e guardando fuori nello spazio e nella notte profonda, dove ardevano e ardevano 10 miliardi di miliardi di bianche e belle candele. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. E termina qui questa puntata speciale di Terra in Vista, il Natale spiegato a mio figlio. Vi lasciamo ora ai vostri doni, ai vostri regali, ai vostri pacchi, a tutto ciò che avete trovato sotto l'albero. Un grazie a Poste Italiane che ci ha permesso di andare a spulciare tra le oltre 150.000 letterine ricevute che loro hanno girato a Babbo Natale, spedendo anche ai bambini, così in segno di ringraziamento, come regalo, un'app, l'albero della pappa, per la corretta alimentazione. E poi ringraziamo chi queste lettere le ha lette, ha dato voce ai desideri e alle speranze di altri bambini. Sono stati Alice Seccardelli e Sofia Pellegrino, Alessandro Ruggeri e Alessia Cattaneo. E poi grazie a chi ha scritto la puntata con me, Silvia Righini, e a Pietro Lacorte e Paolino Corleone, che invece hanno dato assistenza tecnica. Questa è la squadra di Radio 24. Da tutti noi, buon Natale! Babbo Natale, ricorda che noi l'anno passato ti abbiamo scritto la lettera e tu non ci hai mandato nulla. E se non ci mandi più niente, noi non ti scriviamo più la lettera. Hai capito, Babbo Natale? Scrivimi, caro Babbo Natale, per favore. Chiara.